Siamo qui con Silvia Bottiroli, la curatrice del progetto di Fuori Festival. Le va di presentarci il progetto, spiegarci qual è il suo obiettivo, con quale spirito è nato? Sì, Fuori fa parte di un progetto più ampio della città di Bologna che si rivolge alle istituzioni artistiche e culturali per sviluppare delle progettualità destinate a persone adolescenti e giovani che abitano la città metropolitana. Quindi il quadro, diciamo, di obiettivi è quello di intervenire con gli strumenti e i linguaggi dell'arte a creare dei campi da gioco, delle situazioni in cui persone adolescenti possano partecipare nella creazione o nello sviluppo di contenuti e che nel caso di Fuori si realizzano poi in una dimensione pubblica, quella dei festival che si terrà dal 6 all'11 giugno. Fuori nello specifico ha costruito per oltre un anno dei percorsi laboratoriali e poi di creazione e produzione artistica, invitando artisti e artisti della scena performativa internazionale a lavorare a Bologna, a intrecciare i loro percorsi con quelli di altre artiste che abitano la città e a costruire dei dispositivi in cui persone adolescenti possano prendere parola o prendere potere per un pubblico adulto che potrà adesso vedere queste creazioni. E ci sono dei temi cardine che legano gli spettacoli? Non c'è un filo unitario, però ci sono dei temi, delle questioni che ci sono sembrate prioritarie fin dall'inizio. Una è quella dello spazio pubblico come tema, ma anche come gesto di riappropriazione di uno spazio che, come sappiamo, è stato sottratto negli anni scorsi per ragioni sanitarie ed emergenziali, e uno spazio tanto più importante per la fascia di età a cui ci rivolgiamo, ma anche lo spazio pubblico come dimensione simbolica di un pensiero di città e di vita comune. La dimensione politica è un altro, la dimensione del politico come anche dimensione che, come dire, è prima della politica partitica, ma riguarda appunto il modo in cui viviamo insieme o il modo in cui possiamo immaginare degli orizzonti, degli scenari futuri o costruire delle narrazioni che ci permettano di navigare questo tempo. L'altra è la questione che riguarda il corpo e le sue politiche, con dei progetti che toccano ad esempio la questione della violenza sistemica di genere, ma anche che riguardano il tema dell'affettività e della sessualità. E da ultimo abbiamo voluto mettere una parola che forse è un po' complessa, che abbiamo scelto la parola autorità nell'accezione in cui ne parla la filosofa femminista Luisa Muraro, che forse è un'accezione più vicina alla parola autorevolezza per come la usiamo di solito. Muraro scrive che autorità significa poter essere potenti senza i mezzi del potere e che l'autorità è sempre relazionale, qualcosa che ci si accorda in una relazione, e ci sembrava una questione fondamentale per rimettere anche un po' in asse il rapporto tra mondo adulto e persone adolescenti in un progetto del genere. Il programma sicuramente appunto è molto ricco, ci sono tantissime personalità internazionali. C'è uno spettacolo, un progetto che le sembra incapsuli meglio lo spirito del festival? Questa è sempre una domanda impossibile per i curatori. No, direi che non c'è, però mi sento di dire che forse appunto la scelta di avere in anteprima di festival invece la presentazione di Disforia Mundi, l'ultimo libro di Paul Preciado, è stata un po' la ricerca di una voce che in qualche modo, sebbene molto specifica nelle questioni che tocca, però tenesse insieme un po' appunto lo spirito di questo lavoro che abbiamo fatto, e cioè appunto un senso in qualche modo anche di... Preciado scrive: l'ottimismo è una metodologia in quel testo, la trovo una frase molto bella, cioè un senso di volere nonostante tutto e nonostante le narrazioni catastrofiche in cui credo che in particolare persone delle generazioni più giovani siano cresciute immerse, sia possibile immaginare degli inizi di mondo. Questo è un po' il gesto che Fuori ha provato a fare, anche confidando nel fatto che la creazione artistica è sempre una creazione di un'origine e di un inizio, quindi in qualche modo ci rimette in una posizione iniziante invece che in una posizione di fine, in cui molte delle narrazioni contemporanee anche giustamente ci collocano. Grazie mille. Grazie a te.